Benvenuti su Radio Pawalla, io sono Davide e continuiamo a parlare di questo grande evento live di musica che si svolgerà questo sabato 20 luglio a Chiaverano, A Night Like This Festival. Oggi qui, questa sera, siamo in studio, sono qui con Marco e Roberto e abbiamo degli ospiti che sono un gruppo molto particolare, si sono presentati da grandi artisti con un po' di ritardo e un sacco di strumentazione strana. E adesso gli andremo a chiedere che cosa hanno portato e a che cosa serve. Loro sono Bordo e gli Scleropatici, o meglio, Bordo e gli Scleropatici 2. Corretto? Correttissimo. Allora, facciamo una breve presentazione. Sono tre ragazzi giovanissimi, tre musicisti che hanno già un po' di esperienza alle loro spalle, nonostante la giovane età. Adesso ci andremo a raccontare un po' meglio i vostri nomi e lo strumento che suonate. Elia, contrabbasso. Gabriele, piano, tastiera e cianfrusaglie. Alessandro, tromba, piano, chitarra. E un sacco di altre cose. Avete capito che questo non è un gruppo convenzionale, non ci hanno risposto al classico basso, batteria, chitarra, ma insomma avete già un approccio un po' particolare con la strumentazione, corretto? Sì. E allora, la vostra, come dire, particolarità parte dal nome, quindi mi viene subito da chiedervi perché Bordo, innanzitutto perché gli Scleropatici e perché gli Scleropatici 2? Secondo me può sembrare molto esotica come cosa, ma in realtà Bordo perché io sono Bordo. Il tuo soprannome? Sì, mi chiamo Gabriele Bordone. Per ok, cui ci sta. Molto due perché sono in due. Scleropatici perché... perché... È la fusione tra la parola sclero e psicopatici, quindi ammazza. Siamo abbastanza particolari, insomma, quindi psicopatici è il nome che più abbiamo usato per chiamarci. C'è della stranezza, c'è della pazzia nella vostra arte. Sì, assolutamente. Se li avessi visti qualche minuto fa urlare sulla tangenziale con i piedi fuori dalla macchina, così avresti capito il perché, perché un po' hanno il range del... io guido, quindi devo essere quello più regolare. Tu sei quello responsabile, sei anche quello più vecchio. Solo quando vecchio guido. Tra virgolette perché ha 21 anni, no, quindi. Sì, solo quando guido in realtà, però è preoccupante perché ogni tanto mi chiedo fino a dove possono arrivare e fino a dove potranno reggere. Bene, bene, gli Scleropatici sono molto simpatici. E procediamo quindi. Da quanti anni suonate insieme? Suonate insieme. Da 0, da qualche mese. Qualche mese? Sì, quattro mesi, sì. Diciamo che per questo progetto, in altri progetti abbiamo già suonato, avevamo un gruppo funky, soul, R&B, un po' di altre cose. Abbiamo fatto un po' di percorsi molto diversi, un gruppo jazz, un po' molti interessi. Ho capito. E questa musica con Bordo c'era già? Questi pezzi c'era, questa musica no, nel senso che ovviamente sono cambiate molte cose. Negli ultimi mesi si sono aggiunti gli Scleropatici e avete costruito un progetto insieme. Ascoltate, come siete arrivati alla Night Like This Festival, che si terrà, come raccontavamo prima, questo sabato 20 luglio, e cosa ne pensate di questo festival? Guarda, secondo me se vuoi un'intervista davvero scoppiettante dovremmo far parlare un po' lui, perché ha un rapporto con l'italiano poco convenzionale, però boh, magari lo teniamo per dopo per qualche perla. Sì, uno dei due Scleropatici. Sì, sì, sì. Comunque, no, A Night Like This, diciamo che noi non lo conoscevamo sinceramente, perché comunque anche non abbiamo avuto un rapporto molto presente con gli eventi della zona, purtroppo, perché uh-huh. Siamo sempre stati molto impegnati, però appena abbiamo visto un posto Chiaverano, così non eravamo molto fiduciosi, poi abbiamo visto due foto. Conoscevate Chiaverano? Voi siete della zona? No, siamo di fuori, di Chivasso. Quindi, Chivasso. Sì, quindi no, non conoscevamo assolutamente. E abbiamo visto un po' di foto e appunto lo sclero degli Scleropatici è salito a livello massimo, anche perché noi abbiamo un po' il fascino per queste cose, le location particolari, i laghi. E questa è molto particolare. È molto, sì, particolare. Ci siete già stati a Chiaverano? No, mai stati. Okay. Mai stati, però sono bastate due foto per far scattare la molla dello sclero. Sì, siamo stati a Chiaverano per un... Per il 10 che abbiamo fatto un concerto, alla Locanda del Panigaccio. Ah, esatto. Bella, bella quello. Sì, infatti, è un bel locale gentile. Di Chiaverano, la Locanda del Panigaccio. Ringraziamo di tutto. È stata veramente una bella serata, a parte la pioggia, ma... la pioggia che si spera non ci sarà, perché voi in che palco suonerete alla Night Like This Festival? Lo sapete già? Ci sono quattro palchi. Nel Quieto Vivere. Quieto Vivere, che quindi è quello all'aperto, acustico, intimo. Sì, esatto. Queste sono le infatti le se piove saremmo rovinati, speriamo di no. Ah, dai, andrà bene. Anche secondo me le previsioni dicono bene, infatti, per ora va bene. Ascoltate, invece, sono molto interessato dal vostro setup live di questo evento. Come sarà? Siccome abbiamo... Facciamo un po' di pubblicità per le persone che vorranno venire a vedervi. Ci vuole quindi il botto. Beh, aboliremo l'ICI innanzitutto. No, diciamo che abbiamo il problema che abbiamo frequenti cambi di strumentazione, per cui dobbiamo sempre un po' anche le scalette gestircele in modo da non creare spazi vuoti fra un pezzo e l'altro. Certo. Quindi ci stiamo ancora un po' pensando in realtà, perché avevamo un po' di idee, ma il problema è sempre capire qual è la praticabilità delle cose, perché vorremmo fare anche cose al di sopra delle nostre possibilità. Avendo poco tempo, poi avremo penso mezz'oretta per suonare, quindi insomma meglio sfruttarlo bene il tempo, quindi meno cambi possibili. Ok, certo. Quindi un paio di pezzi con la chitarra, due o tre, poi il resto pianoforte. Quindi strumentazione semplificata rispetto al solito. Sì, però ci sono quei due oggetti apparentemente futili che però non possono mancare, come il richiamo per quaglie, quelle cose lì. Ce l'avete qui stasera? Assolutamente, sì. Lo sì, possiamo sì. sentire un attimo? Assolutamente, sì, okay, sì. È un privilegio, adesso lasciate. Allora, mentre uno degli strumentisti ci va a prendere il richiamo per quaglie, raccontaci un po' da cosa deriva la scelta di questo strumento. Allora, deriva dal fatto che avendo degli amici molto particolari, sono anche i regali che ricevi a Natale sono molto particolari, essendo molto squattrinati. A te a Natale ti regalano un richiamo per ma sì, perché sanno che qualunque cosa faccia rumore, bene o male, l'apprezzo. Ti può piacere. Penso sia nella tasca sopra. Fondo, ragazzi, questa sulla De Bawalla è tutta live. Qui sì, con me ci sono Bordo e gli scleropatici. Stiamo parlando della Night Like This Festival. Beh, intanto potreste avere un assaggio di boccaglio di maschera da sub. Allora, questo è un esperimento. Noi non lo sapevamo, ma loro si sono presentati con una valigia davvero di strumenti musicali e di cose che ci stanno per far sentire. Quindi, Bordo e gli scleropatici, Bordo e gli scleropatici 2. Passiamo alla prova dei vari strumenti che utilizzate. Decisamente non convenzionali. Esatto, la suite numero 1 per Boccaglio. Se siete una radio indipendente e partite lo con siamo, questa roba, secondo me non farete molta strada. Potevate chiamare i Red Wine, dei gruppi un po' più simpatici. Allora, quello che abbiamo appena sentito, per gli ascoltatori a casa che non potevano vedere questo spettacolo incredibile, era il suono di un boccaglio da sub suonato dalla parte dove si respira, dall'altra, quella che sta fuori dall'acqua. E poi io adesso l'ho suonato io, ma lui lo suona meglio, perché essendo trombettista con gli strumenti a fiato, però credo vi possa bastare. No, ma sentiamolo, dai, allora abbiamo la persona che suona solitamente la tromba. Che cambia anche nota. Ragazzi, questa è arte. Ho la pelle d'oca. Vabbè, no, stasera mi ha messo la tristezza. Era una sonata tragica per Boccaglio. In là, forse. Più in qua che in là, sicuramente. Comunque no, suoniamo un pezzo in re con questo, però potrebbe essere anche là. Vabbè. Benissimo, allora passiamo al secondo strumento. Richiamo per quaglia. No. Richiamo per quaglia. Comunque adesso sembra una stronzata, si può dire, no? Si può dire. Ok, devo dare un elenco. Tipo nelle vecchie radio non si può dire piedi, bisogna dire No, estremità. È il vantaggio di essere liberi da sponsor. Okay. No, adesso sembrano un po' così, diciamo, delle grullate, però in realtà stanno bene nei pezzi, perché... Sì, esatto, fanno psichedelia. Poi sono suoni poco sentiti, ovviamente. Adesso non vorremmo prenderci dei meriti che non abbiamo. No, ma io sono molto colpito, sono serio. È interessante la vostra ricerca della sonorità che non deriva da strumenti classici. Neanche da strumenti. Neanche da strumenti, hai ragione. Infatti il boccaglio per sub... Proviamo a sentire allora il richiamo per quaglie. Questa è una chicca. Scusate, ma questo è il suono della quaglia. Ma io comunque abito abbastanza in mezzo a una collina boscosa e quaglie non ne ho mai viste suonando questo. Però in teoria dovrebbe essere. Al massimo asini. Ragazzi, bellissimo, un applauso ci vuole qui, ci va un applauso. 3 anni di conservatorio. Anni di conservatorio, tu sei diplomato in quaglie, in richiamo per quaglie, sì, sì, sì, sì, sì. 4 anni. Sì, 4 anni. Sì. È un luminare della pratica. No, bello, il suono è bello, vero? Sì, sì, è il riverbero che... Il riverbero poi... Com'era il vostro rapporto con l'elettronica? Sì, sì, si passano il microfono. Allora, con l'elettronica, diciamo, come musica ci attrae tantissimo e penso che, almeno da parte mia, io vorrei assolutamente fare aggiungere più suoni elettronici e penso anche loro, da come dimostrano i CD in macchina. Quindi siamo molto attratti e penso che vorremmo... Probabilmente fra un po' ci sarà qualche suono elettronico. Perché... Per ora in realtà il vostro sound è più di derivazione acustica, nel senso che fate una ricerca di tipo, appunto, di questo tipo, utilizzate uno strumento non convenzionale, un tubo di plastica, sì, piuttosto che il sintetizzatore, per dire. Anche per mancanza di competenze, secondo me, nel senso che comunque con l'elettronica non siamo poi così esperti, però dai, abbiamo tempo, ci metteremo perché ci interessa. Abbiamo degli effetti voce, per esempio, per la tromba ha il riverbero proprio che è il suo suono, assolutamente, perché anche i concerti ci rifiutiamo di suonare se non ce l'abbiamo, ce lo portiamo dietro perché... È un po' una caratteristica. Ci state dicendo che il riverbero è un altro strumento. È la vita proprio della tromba. E qua mi viene da dire che è quasi un altro protagonista della vostra musica. Assolutamente. Gli sclerolopatici 3, sì, no, il terzo è il riverbero. No, poi comunque io quando vedo, che ne so, che dobbiamo suonare in qualche location particolare, tipo per esempio vedo il Lago Sirio, mi sento il suono della tromba con il riverbero sul Lago Sirio, non il suono di tutto, quindi... Siriolo, giusto? Fantastico. E allora, prossime date? Vabbè, 20 luglio ormai. No, però. Vabbè, abbiamo domani, il 19, siamo a Favria per un festival. Drink e cocktail overs. Overs, proprio tipo, come dire, marcioni, ma in inglese. Ah, ok. Sì, quindi calziamo proprio a pennello. Dopo poi... Sì, abbiamo il nostro Chiaverano. A Chiaverano, sì. Probabilmente ci fermeremo lì a dormire, magari, chissà che non ci torna utile anche il richiamo per quaglie, il boccaglio, il didgeridoo, strumenti, metallofoni vari. E quest'estate invece avete già previsto qualche altro da... No, fino adesso diciamo che abbiamo avuto 2 mesi proprio stracolmi da non saper neanche bene... Date a settimana? In media, negli sì. ultimi mesi, eravate sempre in giro praticamente. Sì, e sì, dove avete suonato principalmente? Vabbè, qua a Ivrea intanto c'è stato quei 4 venerdì, quindi 7, 14, 21, 28. Poi abbiamo avuto altre date a Spazio 211 a Torino. Abbiamo avuto Chivasso. Sì, abbiamo partecipato a un festival, ci piacerebbe citare il Nothing Else to Do, organizzato da Francesco Borello, che si è fatto davvero un gran fodello, un uomo che da solo riesce a combattere il comune e ogni altro ostacolo possibile. E quindi sì, siamo riusciti ad arrivare in finale anche lì, al terzo posto. Abbiamo partecipato al Torino Rocks the World. E poi un po' di locali. Sì. Non, tipo un paio di questi eventi, no, uno in realtà, non era come con la nostra formazione, ma era con una scuola di cantanti, di Cristina Lai, che è un'insegnante di Torino. Abbiamo fatto un po' i turnisti per fare questa esperienza. Ci sta, è sì, tutta sì. esperienza. E poi comunque, dopo un po' che suoni boccagli, cose, hai voglia di suonare magari una chitarra normalmente. Una cosa normale. Senza, sì, i Beatles, cioè. Boh. Benissimo. Album, registrazioni... Mancano i soldi. Sostanzialmente. No, vabbè, useremo. Ma voi siete talmente creativi che non credo che abbiate bisogno di. No, vabbè, di grandi soldi per una buona produzione. No, ci arrangeremo ad agosto, magari. In mezzo alle valli paludose. Roba che mi sta mandando fuori. Sì, dalla regia ci mandano una domanda che dobbiamo fare. Sì, quindi agosto lo sfrutteremo per quello, per creare magari qualcosa insieme, perché purtroppo non abbiamo ancora creato qualcosa insieme, nel senso abbiamo riarrangiato tutti i brani, erano quasi tutti di Gabriele, del Bordo per essere più precisi, okay. E li abbiamo riarrangiati insieme, quindi... Quanti sì, brani, per curiosità? E adesso siamo... sì... 10? 10, 12, non lo so. 10, 12 è un album, no, ci sta. Difatti in realtà hanno di più, però poi diciamo che quando cominciamo a riarrangiare così passa una prova per un brano, perché ci sono tante idee da mettere insieme, per cui ne abbiamo un po' nel cassetto. Lui, Alessandro, trombettista qua alla mia destra, ha già un disco fatto tutto da lui con un iPhone, così anche noi ci siamo un po' arrangiati come potevamo. Lo so che qua iPhone viene la pelle d'oca se lo dico, no, però... ma no, non siamo assolutamente talebani. Guarda, in questo io sono onesto. Ha tirato fuori un vecchissimo non so, ma non lo so, non ha neanche la marca, cosa? È un coso che telefona, forse, se forse telefona, se sì. Telefona. Detto questo, procediamo. Conoscete il Creative Commons? Ne avete già sentito parlare? Ah, cicci, perché ecco. Esatto, perché ricordo che Radio Bawalla, che state sentendo in questo momento, è una radio che promuove cultura Creative Commons, musica licenziata con questo tipo di licenze. Bordo. Sì, dai. No, sì, io mi c'ero interessato appunto perché ho cominciato tristissimamente la carriera da solista. Quindi... È vero, per aggiungere dramma alla storia nei allora, peggiori locali di Torino. Voi non così. Sentite, però nel frattempo c'è il boccaglio che fa da colonna sonora sì, a questa, per aggiungere a questa dichiarazione triste di Bordo, sì. Che iniziava e tristemente quindi, la sua carriera. Già suonavo triste, già suonavo nei locali tristi, minchia, mi rubano pure i pezzi. Cioè, e allora, però non avendo soldi, che è un po' anche un altro, è il quarto scleropatico, la mancanza di soldi, dopo il riverbero, che ci accomuna così nella mala sorte, anche perché li spendiamo in stronzate di nuovo. Tipo due digeridù. Due digeridù? Infatti. Dai, ma ce li fate sentire? Sì, infatti. Dopo la domanda, solo certo. Del Creative Commons, boh, mi è sembrato subito una cosa molto interessante. E infatti io già mi ero già attivato per inviare le mail, così. E poi però abbiamo cominciato a suonare insieme, quindi ho pensato di... Avevo delle registrazioni mie, ovviamente. Ho pensato di mettere delle registrazioni. Le facce alla vista del didgeridoo sono state... No, scusate. Allora qua è partita la risata in studio perché... Allora, sono arrivati con una serie di pacchetti e adesso Alessandro, il trombettista scleropatico, è andato a prendere il didgeridoo e gli dico, ma da dove lo tira fuori? E lo tira fuori dalla custodia del basso. Quindi dentro la custodia del basso, a forma di basso, Fender degli anni 90, non c'era il basso, ma è uscito fuori questo tubo australiano, strumento australiano che serve appunto per fare queste note basse molto lunghe. Devo dire, ho poca esperienza, adesso mi racconterete voi, ma è uno strumento molto difficile da suonare. Ma se ce l'hanno loro, secondo me. Non essere cattivo. Allora, no, comunque... Sì. Non ce l'ho ancora fatta. Ma non è vero. Adesso Bordo ti darò non ce l'ha ancora fatta. No, ti darò un saggio. Comunque, no, sì, poi hanno imparato la respirazione circolare, per cui fanno i cazzari, ma lo fanno bene. La respirazione circolare, che è fondamentale per suonare così. Sì, è praticamente una tecnica che permette di inspirare dal naso e continuare a respirare dalla bocca e quindi emettere suono. Un soffio continuo. Esatto. Che non si ferma mai. Comunque sì, è quasi divaga facilmente perché con gli scleropatici è così. Comunque no, sì, del no, Creative ma non Commons... Ma non vi preoccupate, poi taglieremo, okay. No, a proposito del Creative Commons è davvero una gran cosa, nel senso che prima cosa era molto freak, quindi aveva il suo fascino, sapeva proprio di indipendenza, appunto, di artisti, unire pensieri più underground, che comunque la musica adesso a livello commerciale ha lasciato un po' stare, nel senso che sembra che la strada non sia più quella. Però quindi scusami, questo è importante, spiegami meglio. Cioè, secondo me adesso, una volta c'era la rockstar che partiva dalla cantina, secondo me, poi non so, magari dico delle inesattezze, e voleva suonare e avere successo. Adesso ci sono quelli che vogliono avere successo e quelli che vogliono suonare. E quindi anche i vari fenomeni dei reality di X Factor, sì, è quasi più la voglia di fama che non l'espressione. Mi dà quell'impressione, ma poi mi sembra molto una carneficina, perché comunque sono talenti, nel senso che tecnicamente sono bravissimi, però prestati un po' proprio un meccanismo che prima o poi li schiaccia tutti, nel senso che il primo gruppo che ha vinto X Factor, mi ricordo, era un gruppo vocale, l'avevo guardato perché c'era un nostro amico che ha partecipato. Chi era? Daniele Murroni, era in un gruppo vocale che hanno fra l'altro anche lì costruito alla bisogna, così per mettere insieme persone che sarebbero state scartate. C'è proprio una cosa un po' triste, secondo me. il gruppo che ha vinto quell'edizione è sparito. Poi c'è stata la vincitrice dopo, sparita pure quella. Cioè, sì. E adesso addirittura quella che ha vinto, che non so più dove lo trasmettono, non avendo soldi, non ho né Sky né niente. Che e il primo atto artistico che ha fatto, la sua prima partecipazione, è stata una pubblicità. Cioè, quindi tu dici questo tipo di tendenza, quello di... di utilizzare la musica come uno strumento per sfondare, poi alla fine per raggiungere il mito del successo, secondo me sì. Ti sta un po' stretto. Mi sta un po' stretto, ma poi anche noi abbiamo osservato nella nostra scuola, che è il Senigallia di Chivasso, partecipando così ai corsi di musica d'insieme, che adesso sembra che siamo vecchi, nuovi, giovani, le nuove generazioni, però si fanno prima la cresta, prima si fanno i tatuaggi e i piercing e poi cominciano a suonare la chitarra. E quindi non so, ovviamente non lo fanno bene, con tutto rispetto, nel senso che non sono interessati, secondo me. Poi non so. Dai, tu Alessandro, potresti aggiungere cosa qualcosa. Cosa ne pensi? Beh, io dovrei far parte della nuova generazione, tecnicamente. Alessandro è giovanissimo, ha 17 anni. In effetti sì, c'è più il bisogno di apparire, di sentirsi quello rivoluzionario e poi forse anche suonare. Questa era una cosa che prima non c'era, secondo me, perché qualche anno fa solo chi era musicista poteva permettersi di andare in giro con una cresta, se no era giudicato subito come una personaccia. Invece ora come ora siamo una generazione liquida, nel senso che non ci sono più i principi, non si è tutto liquefatto, e quindi più sei strano, più sei stravagante, più sei contro la legge, più sei contro la chiesa e più sei quello figo, diciamo. E il problema è che appunto con questo liquame anche il semplicemente il fare musica non è più così importante, cioè è più importante che tu sia figo e forse sai suonare la chitarra che sai suonare la chitarra e sei anche figo, secondo me. A me piacerebbe molto capire un po' il vostro approccio all'espressione musicale come parte. È proprio un'esigenza del sentire qualcosa che non esiste? Com'è che, da cosa nasce la vostra voglia di suonare? Dall'acchiappo. Dall'acchiappo, sostanzialmente, tutto quello che potrebbe far salire lo sclero. Sclero è una parola molto complicata da finire. Andiamo al cuore della questione. Non so, si possono solo fare esempi, tipo esempi. Suonare in mezzo ai boschi con appunto con appunto le location possono far venire lo sclero. Oppure, che cos'è lo sclero per voi? Lo sclero è quella dentro la melma, dentro le idee del cervello, c'è quello zampillo. C'è quello zampillo che esce fuori e tu lo ammiri e lo vedi che lentamente ritorna dentro la melma, e quindi capisci che quello è lo sclero. Mi sto facendo condizionare dagli scleropatici. Allora, questo è il mio punto di vista. Questo è il mio punto di vista. Adesso anche sentiamo anche i suoi testi sono così, tutti così proprio. La melma, la roba che esce, XY, eccetera, eccetera. Ha scritto un testo dagli appunti di... Cioè io mi faccio tutti i testi filosofici, lui ha scritto un testo dagli appunti di... Ecco, che cos'era già? Disciplina turistica. E quindi ci sono tutti gli elenchi dei tipi di bagno disponibili nei... È molto dadaista come cosa. Esatto, sì. Esatto, sì. No. Poi qual era la domanda? Non me la ricordo più. Ma neanche io. Ah, no, ok, sì, da dove sono completamente perso. Adesso prendo uno strumento, suoniamo. Secondo me si fa musica prima di tutto per se stessi, poi per il gruppo, poi per magari le persone care fra il pubblico e poi per il pubblico, che è molto brutto da dire, però è un po' così. Per se stessi, sì. Tipo... Secondo me, no, poi parlo per me, perché certo, non vorrei certo, dire... la domanda è tua. Perché è più espressione, comunque a ex alla base, adesso faccio quello che sa in latino, non lo so il latino, però so che ex vuol dire fuori. E quindi è qualcosa che devi buttare fuori da te stesso, quindi è uno strumento, secondo me. Sì, c'era una nostra metafora di un nostro testo futuro, futuribile, che è un po' come il cervello che vomita fuori ciò che non riesce a tenere dentro, esattamente come il corpo. Ragazzi, che visione. È vero, visione. Però il vomito fa schifo e puzza, invece i nostri pezzi. Vabbè, I vostri pezzi no. No, no, no, dai, parliamone, no, no, bene. No, infatti, infatti. No, sono bellissimi, emozionanti, emotivi. Scusate, emotigeni. A questo punto ci ascoltiamo un po' di Didgeridoo. Sì, dai. Che ne dite? Di solito a questo punto si lancia un pezzo e noi invece ci ascoltiamo un bel Didgeridoo. Sul Didgeridoo fai una presentazione, che è lui quello che ha fatto nascere la moda. Hai portato, ecco, tu il Didgeridoo in Italia? No, magari in Italia no, però come dicevi tu, da dove nasce l'idea di far musica? La mia personale è proprio un'esigenza d'orecchio, nel senso, senza frequenze basse proprio non potrei vivere. E quindi il Didgeridoo mi tira fuori proprio quella cosa lì. Quindi tu nasci come bassista magari? Sì, assolutamente, okay. Assolutamente come bassista, un po' storto con un po' di cose, mai usato un basso normale, una roba. E quindi un po' la voglia di sperimentare. Poi è stata fuori l'occasione di suonare il contrabbasso. Ovviamente se fai un percorso jazz o qualcosa del genere non puoi non passare dal basso al contrabbasso. Certo. E quindi è nata poi questa cosa qua, le prove. Il progetto è nato appunto con Gabriele, che da solo, poi l'idea di fare un duo di basso solo e voce, e poi da lì, ma porca miseria, ma io e i miei pezzi, perché non facciamo basso i miei pezzi? Una voce. Cosa è un'altra. E tra una cosa e un'altra abbiamo inserito anche Alessandro, detto Arctic, rompe il ghiaccio, e non solo. E poi da lì l'idea di Gabriele, ma perché non vieni col contrabbasso? Questo tipo un mese e mezzo dopo che suonavo, 2 mesi, ma cosa faccio col contrabbasso? Solo da 2 mesi, cosa vuoi che... E poi sì, e poi è venuta fuori questa cosa qua. Quindi quella del Didgeridoo è un po' questa cosa qua di soddisfare l'orecchio, visto che fa note molto profonde, frequenze molto particolari che rilassano il corpo. Quindi sì. Ha un suono particolare. Sì, ha queste frequenze basse che veramente mi rilassano. Una nota sola. Una nota sola. Infatti la ricchezza dello strumento è un po' un'altra cosa, no? Sono i tipi di suono, le ritmiche. Infatti venendo qua a Ivrea in Musica per le 4 serate, quindi per un mese intero, abbiamo ascoltato ogni sera queste note singole che andavano avanti con queste ritmiche particolari. E boh, la prima sera pensavo fosse uno dei suoi deliri, che gli sarebbe passato presto. Poi invece l'ultima ero convinto anch'io. Scusate, ma la curiosità è troppa. A questo punto ascoltiamoci un po' di Didgeridoo. Tengo il microfono al centro così se lo alzate. Da dove esce il suono? Sì, è un tubo, quindi entra da una parte e esce dall'altra proprio. Applauso, applauso. Veramente. Una cosa che mi ha anche sempre affascinato di suo strumento è l'odore. Senti che odore che sprigiona. Ha una cera particolare con non so cosa dentro. È molto legnoso. Sì, lascia questo odore. E tu immagina nel bosco così. Io ho la fortuna di abitare appunto molto fuori, quindi abbiamo la possibilità di suonare nei prati, nei boschi, così. I nostri genitori non sanno più perché ci mantengono. Ragazzi, allora, questa è, devo dirlo, l'intervista più particolare, più strana che mi è capitato di fare finora in Radio Bawalla. Siamo molto contenti di avervi incontrato. Anche noi, grazie. Un in bocca al lupo per sabato, innanzitutto. Grazie. E poi, per quel che mi riguarda, un augurio a mantenervi sempre così creativi, nel senso ad andare dove volete, perché è la cosa più importante nel percorso di un artista, fondamentale. Così scleropatici, penso che resteremo finché faremo i viaggi in macchina tutti insieme. Sì, perché finché facciamo i viaggi in macchina, lì capisci finché davvero... ci sarà benzina. Esatto. infatti, no, vabbè, con tutti questi ci si può anche fermare in una piazzola e rimanere in macchina e suonare. Per la benzina. Un Creative Commons per la benzina. Che magari hai lanciato l'idea, se trovi qualche petroliere. Senti, a proposito di creativo, perché non ci fate il favore di leggere lo slogan della nostra radio, così avremo lo slogan personalizzato di Radio Bawalla letto da Bordo e gli Scleropatici 2. Per cui, se volete, lo slogan è questo qua: Radio Bawalla, don't be common, be creative. Lo facciamo armonizzato. Dai, fate l'armonizzato, per forza. Abawalla. Abawalla. Don't be common, be creative. Benissimo, allora ringraziamo a bordo gli Scleropatici. Ci vediamo sabato, dopodomani, 20 luglio a Chiaverano. Mi raccomando, venite a vedere questo gruppo veramente fuori di testa. Noi ci saremo per forza, saremo lì con lo stand di Radio Bawalla. E quindi grazie ancora e in bocca al lupo. Ciao. Una serata con lo Scleropatici. Ah, ancora una cosa, ancora una cosa. Dai, mettete mi piace alla nostra pagina, che così... Certo, certo. Su Facebook? Sì, perché così... No, perché così almeno quando pubblicheremo finalmente queste registrazioni potrete anche ascoltarci. Certo. Beh, sarete i primi ad averlo, ovviamente. Oppure avere notizie sugli eventi, sui concerti. Esatto, sì. Assolutamente. Allora, grazie ancora e a presto. Ciao, ragazzi. Ciao, grazie.